Non sono una strega, disse Lois. Allora il pastore Tappau le mise una benda sugli occhi, senza che facesse la minima resistenza, solo chiedendosi con stanco stupore cos'altro sarebbe accaduto. Sentì gente che entrava piano nella prigione, la sentì bisbigliare, poi le alzarono le mani e le fecero toccare qualcuno lì vicino, e dopo un attimo sentì il rumore di una lotta e la nota voce di Prudence che urlava in preda a una crisi isterica e gridava che la portassero via fuori da quel luogo. Lois suppose che qualche giudice dovesse aver manifestato dei dubbi sulla sua colpevolezza e avesse preteso un'ulteriore prova. Si sedette stancamente sul letto, pensando che doveva trattarsi di un brutto sogno, talmente le sembrava di essere circondata da pericoli e nemici. Quelli che si trovavano nella cella, e dalla pesantezza dell'aria intuì che erano in molti, continuarono a parlare freneticamente, a bassa voce. Non cercò di capire il senso dei frammenti di frasi che giungevano alla sua mente torpida, sinché d'un tratto una o due parole le fecero comprendere che stavano discutendo sull'opportunità di usare la frusta o la tortura per farla confessare e rivelare il modo di sciogliere dall'incantesimo quelli che aveva stregato. Un brivido di terrore la percorse e ad alta voce implorò: «Oh, signori, vi supplico! Non usate dei mezzi così tremendi, potrei dire qualunque cosa. Sì, potrei accusare chiunque se fossi sottoposta ai tormenti di cui ho sentito parlare. Sono così giovane e non ho il coraggio o la bontà di tante altre ragazze». Uno o due si commossero vedendola lì in piedi con le lacrime che le scendevano da sotto un ruvido fazzoletto, strettamente legato sugli occhi, con la rumorosa catena che assicurava il peso di ferro alla caviglia sottile, con le mani strette insieme quasi a impedire un moto convulso. «Guardate», disse uno di loro, «sta piangendo, dicono che le streghe non possono versare lacrime». Ma un altro respinse beffardamente quella prova e gli ricordò che persino i suoi familiari, gli Hickson, avevano testimoniato contro di lei. Di nuovo le fu ingiunto di confessare. Le furono lette le accuse a suo carico che, dissero, tutti ritenevano ampiamente dimostrate. E le testimonianze addotte a prova. Le dissero che in considerazione della famiglia devota a cui apparteneva era stato deciso dai magistrati e dai ministri di Salem di risparmiarle la vita, qualora avesse confessato la sua colpa, avesse fatto ammenda e si fosse sottomessa alla sua penitenza, ma in caso di rifiuto sarebbe stata impiccata insieme ad altre condannate per stregoneria sulla piazza del mercato di Salem la mattina del giovedì successivo. Il giovedì era giorno di mercato. Quando ebbero finito di parlare, aspettarono in silenzio la sua risposta. Passarono uno o due minuti prima che parlasse. Nel frattempo si era di nuovo seduta sul letto, poiché era davvero molto debole, e chiese: «Signori, potreste levarmi dagli occhi questa benda che mi fa molto male?» Non sussistendo più la ragione per cui era stata bendata, le fu levata la fascia e le fu permesso di vedere. Guardò pietosamente le facce severe intorno a lei, torve nell'attesa della risposta che avrebbe dato, poi parlò. «Signori, devo scegliere la morte con la coscienza tranquilla piuttosto che la vita a prezzo di una menzogna. Non sono una strega. Quasi non riesco a comprendere cosa vogliate dire quando lo affermate. Ho fatto tante cose sbagliate nella mia vita, ma credo che Dio mi perdoni per amore di Cristo. Non pronunciare il suo nome con quella bocca maligna», disse il pastore Tappau, infuriato per la sua decisione di non confessare e trattenendosi a malapena dal percuoterla. Lois ne intuì la voglia, si ritrasse impaurita e spaventata. Poi il giudice Hathorn lesse solennemente il verdetto ufficiale su Lois Barclay, riconosciuta colpevole di stregoneria e condannata a morte per impiccagione. Mormorò qualcosa che nessuno comprese appieno, ma che suonava come una preghiera di avere pietà e compassione di lei, così giovane e abbandonata da tutti. Poi la lasciarono agli orrori della sua cella, solitaria e ripugnante, e allo strano terrore della morte vicina. Fuori dalla prigione, la paura delle streghe e l'eccitazione contro la stregoneria andava aumentando con rapidità impressionante. Molte donne e anche uomini venivano accusati senza riguardo alla loro condizione sociale o alla loro condotta precedente. Si dice poi che più di 50 persone fossero tormentosamente vessate dal demonio e da chi ne aveva condiviso il potere con scopi abietti e maligni. Oggi nessuno può sapere quanto astio si mescolasse a quell'accusa, astio personale, definito e inconfondibile. Le spaventose statistiche di quel tempo ci dicono che 55 persone evitarono la morte riconoscendosi colpevoli, 150 furono imprigionate, più di 200 accusate e oltre 20 messe a morte. Tra queste, il pastore che ho chiamato Nolan, che secondo l'opinione comune patì le conseguenze dell'avversione che il suo collega nutriva per lui. Un vecchio, sprezzando l'accusa e rifiutando di difendersi al processo, fu mandato a morte in conformità alla legge per la sua ostinazione ribelle. Persino i cani vennero accusati di stregoneria, patirono le pene legali e sono registrati tra i condannati a morte. Un giovane trovò il modo di far evadere sua madre di prigione, scappò con lei a cavallo e la nascose nella palude di Blueberry, non lontano dal rio Taplai, nel grande pascolo. La tenne nascosta in una tenda che aveva montato per offrirle un riparo, le procurò cibo e vesti e le fu di sostegno e conforto sinché l'insensatezza fu passata. Ma la povera creatura deve aver sofferto terribilmente, poiché nel tentativo quasi disperato di farla uscire di prigione si era fratturata un braccio. Ma non ci fu nessuno a tentare di salvare Lois. Grace Hickson, se avesse potuto, l'avrebbe ignorata del tutto. La stregoneria imprimeva un tale marchio su un'intera famiglia che a quei tempi la vita onorata di più generazioni non era considerata sufficiente a cancellarlo. E inoltre dovete ricordare che Grace, come la maggior parte della gente di allora, credeva fermamente nell'esistenza del peccato di stregoneria. La povera Lois, abbandonata da tutti, vi credeva lei stessa e la sua paura ne fu intensificata quando il carceriere, in uno stato d'animo insolitamente comunicativo, le disse che al momento quasi ogni cella era piena di streghe e se continuavano ad arrivare poteva darsi che ne dovesse mettere una lì con lei. Lois sapeva di non essere una strega, ma ciò nonostante era convinta che quel crimine fosse diffuso e ampiamente praticato da persone malvagie che avevano scelto di dare l'anima a Satana. Era rabbrividì di terrore alle parole del carceriere e avrebbe voluto chiedere di risparmiarle una simile compagnia, se possibile. Ma in certo modo la sua mente stava cominciando a cedere e non riuscì a ricordare le parole giuste per formulare la richiesta prima che lui se ne andasse. L'unico che si struggeva per Lois, che le si sarebbe dimostrato amico se avesse potuto, era Manassè, il povero pazzo Manassè, ma le sue parole erano così selvagge e sfrenate che sua madre a fatica ne nascose la condizione agli occhi della gente. A questo scopo gli diede un sonnifero e mentre giaceva pesante e inerte sotto l'effetto dell'infuso di papavero, lo legò con delle corde al massiccio letto antico in cui dormiva. Aveva un aspetto disperato, compiendo l'atto che ammetteva la degradazione del suo primogenito, colui di cui era sempre stata così fiera. Tardi, quella sera, Grace Hickson comparve nella cella di Lois, tutta avvolta nel mantello, col cappuccio calato fin sugli occhi. Lois sedeva quieta, giocherellando pigramente con un laccetto che la mattina era caduto dalla tasca di un magistrato. Sua zia era lì, accanto a lei, in silenzio da un po' di tempo, prima che Lois sembrasse accorgersi della sua presenza. Improvvisamente alzò gli occhi ed emise un grido soffocato, ritraendosi dalla forma oscura. Poi, come se il suo grido avesse sciolto la lingua di Grace, questa iniziò a parlare. Lois Barclay, ti ho mai fatto del male? Grace non sapeva quante volte la sua mancanza di amorevolezza avesse ferito il cuore sensibile della straniera che viveva sotto il suo tetto, né Lois se ne ricordò in quel momento. Al contrario, la sua memoria era piena di gratitudine per tutto quello che una persona meno coscienziosa di sua zia avrebbe tralasciato e che lei invece aveva fatto, e quasi le tese le braccia come a un'amica in quel luogo desolato, mentre rispondeva: «No, no, sei stata molto buona, molto gentile». Ma Grace non si mosse. Non ti ho mai fatto del male, anche se non mi è mai stato chiaro perché sei venuta da noi. Mi ha mandata mia madre sul letto di morte, gemette Lois coprendosi il viso. Era sempre più buio, sua zia stava in piedi, immobile e silenziosa. Ha Hai subito dei torti da qualcuno dei miei? Chiese dopo un po' Grace. No, no, mai, finché Prudence ha detto: Oh zia, pensi che io sia una strega? E a quelle parole Lois si alzò, tenendosi al mantello di Grace e tentando di leggerle in viso. Grace si ritrasse impercettibilmente dalla ragazza che temeva e che allo stesso tempo cercava di ingraziarsi. L'hanno detto persone più sagge di me e più pie di me. Oh, Lois, Lois, era il mio primogenito, liberalo dal demonio in nome di colui che non oso nominare in questo posto terribile, gremito di coloro che hanno rinunciato alla speranza contenuta nel battesimo. Libera Manasseh dalla sua condizione orrenda, se mai io o i miei ti abbiamo usato delle gentilezze. Mi supplichi nel nome di Cristo, disse Lois. Io lo posso dire quel nome santo perché, zia, davvero, per la santa verità, io non sono una strega e devo morire lo stesso, impiccata. Zia, non lasciare che mi uccidano, sono così giovane e che io sappia non ho mai fatto del male a nessuno. Zitta, vergogna! Oggi pomeriggio ho legato il mio primogenito con grosse corde per impedirgli di farsi o farci del male. A tal punto è forsennato. Lois Barclay, guarda! E Grace si inginocchiò ai piedi di sua nipote e giunse le mani come per pregare. Sono una donna orgogliosa, che Dio mi perdoni, e non mi è mai venuto in mente di inginocchiarmi davanti a nessuno tranne che a lui. E ora mi inginocchio ai tuoi piedi per supplicarti di liberare dai tuoi incantesimi i miei figli e soprattutto mio figlio Manassè. Lois, ascoltami e pregherò l'Onnipotente per te se ancora vi può essere pietà. Non posso, non ho mai fatto del male. Né a te, né ai tuoi. Come faccio a disfarlo? Come? E si torse le mani nella disperata convinzione della propria impotenza. Allora Grace si alzò, lenta, rigida e torva. Rimase in piedi nell'angolo più discosto della cella, lontana dalla ragazza in catene, accanto alla porta, pronta a scappar via non appena avesse maledetto la strega che non voleva o non poteva disfare il male che aveva provocato. Grace alzò la mano destra e continuò a tenerla alzata mentre malediceva Lois in eterno per il suo peccato mortale, per la mancanza di pietà, persino in quegli ultimi momenti. E infine le intimò di incontrarla davanti al Tribunale Supremo per rispondere della pena fatale inflitta alle anime e ai corpi di quelli che l'avevano accettata e accolta in casa, quando era venuta da loro orfana e straniera. Sino a quell'ultima ingiunzione, Lois era rimasta ferma, come chi ascolta la propria sentenza senza potervi opporre nulla, poiché sa che sarebbe vano, ma alzò il capo quando sentì sua zia parlare del Tribunale Supremo e quando Grace tacque, anche lei alzò la mano destra, come per impegnarsi solennemente con quel gesto e rispose: Zia, ti incontrerò là e là vedrai che sono innocente da questo peccato mortale. Che Dio abbia pietà di te e dei tuoi. La calma della sua voce infuriò Grace e si chinò come se volesse raccogliere una manciata di polvere da terra per gettargliela in faccia e gridò: Strega, strega, implora pietà per te stessa. Non ho bisogno delle tue preghiere. Le preghiere delle streghe si leggono all'incontrario. Ti sputo addosso e ti sfido. E se ne andò. Lois rimase seduta a gemere tutta la notte. Dio, dammi il conforto, Dio, dammi la forza. Non riusciva a ricordare altro da dire, era tutto ciò che voleva, nient'altro. Paure e desideri sembravano morti in lei, e quando il carceriere le portò la colazione la mattina successiva, riferì che era rinscemita, poiché a dire il vero non sembrò riconoscerlo, mentre continuava a dondolarsi avanti e indietro, sussurrando piano tra sé, accennando un sorriso di tanto in tanto. Ma Dio le diede il conforto e anche la forza. Tardi nel pomeriggio di quel mercoledì spinsero un'altra strega nella sua cella e invitarono entrambe oscenamente a farsi buona compagnia. La nuova arrivata cadde a faccia in giù per la spinta che le avevano dato da fuori e Lois, non vedendo altro che una vecchia coperta di stracci, inerme e prostrata a terra, l'aiutò ad alzarsi ed ecco Natti, tutta sudicia, sporca di fango, ferita dalle pietre, dalle percosse, col cervello completamente smarrito per il trattamento ricevuto dalla folla là fuori. Lois La tenne tra le braccia e delicatamente pulì la pelle scura e avvizzita con il suo grembiule, piangendo su quel vecchio viso, come non era quasi riuscita a piangere sulle proprie sofferenze. Per ore si prese cura delle ferite del suo corpo e quando lentamente tornò il senno nella mente sconvolta della creatura selvaggia, Lois ne ascoltò il terrore infinito della mattina successiva, quando anche lei, come Lois, sarebbe stata condotta fuori a morire di fronte a tutta quella folla infuriata. Lois cercò nella sua mente un qualche motivo di conforto per la vecchia, terrorizzata al pensiero della morte e di una simile morte, che tremava come in preda al malcaduco. A notte fonda, quando nella prigione tutto tacque, il carceriere sentì da dietro la porta che Lois raccontava, come rivolgendosi a un bambino, la storia meravigliosa e triste di uno che moriva sulla croce per noi, per l'amore che ci portava. Le sue parole sembravano occultare il terrore dell'indiana, ma non appena la stanchezza la faceva tacere, le urla di Natti ricominciavano, come se un animale selvaggio la stesse inseguendo nelle fitte foreste della sua giovinezza. E allora Lois riprendeva a parlare, usando tutte le parole benedette che riusciva a ricordare, e confortava l'indiana inerme dicendole della presenza di un amico divino, e confortandola Lois ne fu confortata, infondendole forza, Lois ne fu fortificata. Venne la mattina, venne l'ingiunzione di uscire e morire. Chi entrò nella cella trovò Lois che dormiva col viso appoggiato alla vecchia addormentata, il cui capo ancora teneva in grembo. Quando si svegliò, sembrava non capire bene dove si trovasse. L'espressione scema era ricomparsa sul suo viso smunto. L'unica cosa di cui sembrava consapevole era che, in un modo o nell'altro, affrontando questo o quel pericolo, doveva proteggere la povera indiana. Sorrise debolmente quando vide la bella luce del giorno di aprile, mise il braccio intorno a Natti e cercò di farla star quieta e zitta con parole miti dal significato spezzato, con sacri frammenti dei salmi. Natti si strinse più forte a Lois mentre si avvicinava alla forca e la folla furiosa giù in basso iniziava a fischiare e urlare. Lois intensificò i suoi sforzi per tranquillizzare Natti e infonderle coraggio, apparentemente inconsapevole di essere lei stessa oggetto di ingiurie, fischi, pietre e fango. Ma quando le strapparono Natti dalle braccia e la portarono a patire la pena per prima, all'improvviso Lois sembrò rendersi conto dell'orrore della sua situazione. Si guardò selvaggiamente intorno, tese le braccia come a qualcuno di infinitamente lontano ma ancor visibile, e una sola volta gridò, con una voce che trafisse tutti coloro che la sentirono: «Mamma!» Subito dopo, il corpo della strega Lois oscillò nell'aria e tutti rimasero col fiato mozzo, colpiti da stupore improvviso, come paura di un crimine mortale. L'immobilità e il silenzio furono spezzati da un demente, da un pazzo, che salì a precipizio i pioli della scala, strinse il corpo di Lois tra le braccia, baciò le sue labbra con passione selvaggia. Poi, come se la gente avesse ragione di credere che fosse invasato, saltò giù e si slanciò attraverso la folla, fuori dal perimetro della città, nel fitto della cupa foresta. E Manasseh Ixon non fu mai più visto da occhi cristiani. La gente di Salem si era risvegliata dalla sua spaventosa insensatezza prima dell'autunno, quando il capitano Holderness e Hugh Lucy andarono a cercare Lois per portarla a casa, nel quieto villaggio di Bereford, nel dolce paese d'Inghilterra. E invece furono condotti alla tomba coperta d'erba dove riposava, messa a morte da uomini in errore. Hugh Lucy, andandosene da Salem, si spazzò la polvere dai piedi con il cuore pesante, molto pesante, e per amor suo non si sposò per tutta la vita. Molti anni dopo, il capitano Holderness cercò il serio mugnaio che viveva in riva all'Avon per riferirgli delle notizie che pensava potessero interessarlo. Il capitano Holderness gli disse che l'anno precedente, si era allora nel 1713, in una riunione ecclesiastica devota e solenne si era stabilito che la sentenza di scomunica contro le streghe di Salem fosse revocata e cancellata, e che i convenuti a quello scopo umilmente chiedevano a Dio misericordioso di perdonare qualsivoglia peccato, errore o equivoco vi potesse essere nell'applicazione della giustizia, in nome del nostro pietoso alto sacerdote, che conosce la misericordia verso chi non sa e verso chi si è smarrito. Disse anche che Prudence Hickson, una donna ormai, di fronte all'intera congregazione aveva reso una dichiarazione aspra e toccante di pentimento e dolore per l'errata e falsa testimonianza da lei fornita in molteplici circostanze e tra le altre soprattutto nel caso di sua cugina Lois Barclay. A tutto questo, Hugh Glue si rispose soltanto: «Non c'è pentimento che le ridia la vita». Poi il capitano Holderness estrasse una carta e lesse la seguente contrita e solenne dichiarazione di rincrescimento da parte dei firmatari, tra i quali figurava anche Grace Hickson. Noi sottoscritti, chiamati nell'anno 1692 a rivestire la carica di giurati nella corte di Salem durante i processi a molti imputati, da alcuni ritenuti colpevoli di atti di stregoneria ai danni di parecchie persone, confessiamo di non esser stati capaci di intendere né in grado di contrastare le misteriose illusioni create dai poteri delle tenebre e dal signore dell'aria, ma di essere stati indotti per mancanza di sapere in noi e di giudizio più avveduto da parte di altri a decidere contro gli imputati sulla base di prove che alla luce di ulteriori considerazioni e cognizioni più avvedute legittimamente temiamo fossero insufficienti a prendere la vita di chiunque. Deuteronomio 17:6. E pertanto temiamo di essere stati noi e altri strumenti, seppur inconsapevoli e involontari, nell'attirare su di noi e su questo popolo di Dio la colpa del sangue innocente, il quale peccato, dice il Signore nelle Scritture, non otterrà il suo perdono. Libro secondo dei Re 24:4. Il che interpretiamo in relazione ai suoi giudizi su questa terra, e pertanto esprimiamo a tutti in generale, e al dolore dei sopravvissuti in particolare, la nostra profonda consapevolezza e sofferenza per gli errori compiuti, basandoci su simili prove per qualsivoglia condanna. Ribadiamo il timore fondato di essere stati ingannati dall'apparenza e dall'errore, il che turba e tormenta la nostra mente, e pertanto umilmente chiediamo perdono innanzi a Dio, in nome di Cristo, dei nostri atti, e preghiamo che Dio non voglia scriverne la colpa a noi o ad altri. Preghiamo poi i sopravvissuti nel loro dolore di giudicarci con imparzialità e giustizia, trovandoci allora sotto l'influsso di un'illusione tenace e diffusa ed essendo assolutamente inesperti e ignari di fatti di quella natura. Dal profondo del cuore chiediamo perdono a tutti voi che abbiamo oltraggiato per un senso malinteso di giustizia e dichiariamo, secondo il nostro pensiero di oggi, di non essere disposti per nulla al mondo a ripetere azioni simili sulla base di motivazioni simili. Vi preghiamo di accettare questo in segno di riparazione per l'offesa ricevuta e di benedire l'eredità del Signore affinché lo possiamo supplicare per la prosperità della terra. Thomas Fisk, capo dei giurati, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo la lettura del documento, Hugh Glew, anche più triste di prima, rispose solo: «Non c'è pentimento che giovi alla mia Lois, né che le ridia la vita». Poi il capitano Holderness parlò di nuovo, dicendo che nel giorno del digiuno generale, la cui osservanza era stabilita per tutta la Nuova Inghilterra, quando i luoghi di riunione erano gremiti di gente, un uomo molto vecchio, con i capelli bianchi, si era alzato dal posto dove era solito pregare e si era avvicinato al pulpito per consegnare una confessione scritta che aveva tentato un paio di volte di leggere lui stesso. Vi ammetteva il suo grande e grave errore. Nella questione delle streghe di Salem chiedeva perdono a Dio e al suo popolo e concludeva supplicando tutti i presenti di unirsi a lui in preghiera affinché la sua condotta di allora non attirasse l'ira dell'Altissimo sul suo paese, sulla sua famiglia o su se stesso. Quel vecchio altri non era che il giudice Sewall e rimase in piedi durante la lettura di tutta la confessione e alla fine disse: «Voglia il Signore benigno e clemente salvare la Nuova Inghilterra, me e la mia famiglia». E poi, Si scoprì che negli anni passati il giudice Sewall aveva dedicato un giorno alla contrizione e alla preghiera per mantenere vivo in sé il senso del pentimento e del dolore per la parte avuta in quei processi e che aveva fatto voto di osservare quella solenne ricorrenza fino alla fine della vita per dimostrare il suo sentimento di contrizione profonda. Quando Hugh Lucy parlò, la sua voce tremava. «Tutto questo non riporterà in vita la mia Lois». Né mi restituirà le speranze della giovinezza. Ma, mentre il capitano Holderness scuoteva il capo, e quale parola avrebbe potuto dire, cosa avrebbe potuto contrapporre a una verità così palese, Hugh aggiunse: Sapete qual è il giorno fissato da questo giudice? Il 29 di aprile. Allora, in quel giorno, qui a Bedford, in Inghilterra, finché vivo, unirò le mie preghiere a quelle del giudice pentito affinché la sua colpa sia cancellata e dimenticata per sempre. Lei avrebbe voluto così. Fine.